131esima trasmissione dedicata agli emigrati. Festival della canzone friulana 1964. Signore, signori, buonasera. Tocca a me quest'anno, nell'incantevole cornice del Parco Giacomelli di Pradamano, dare il via al Festival della canzone friulana 1964. Abbiamo tentato un piccolo calcolo. A occhio e croce, coloro che parlano i friulani nel mondo sono forse e forse più di 1 milione. Il nostro augurio questa sera è che questo 1 milione di ascoltatori sparsi ovunque risentano la cara lingua di casa. Con queste parole, Enzo Tortora ha dato il via alla magnifica serata nella quale musicisti e parolieri nostrani hanno voluto dare un pizzico di novità nel canto che si esprime con il Lengaz dei nostri vecchi. Suona l'orchestra friulana della canzone diretta dal maestro Franco Russo. Tornin insieme di Vinicio Clemente è cantata da Armando Galliussi. Mente ade noti hai, dal mio cuor sempre tu sei, il dolor sempre varai, li sornadi sempre che. Ven con me, dolami frute, che si svanti il mio dolor. Ven caiote mi ciasute, che gli viarte al nostro amor. Cui viei e cui frutis, giol darì, i tui veidis, i tui voi cuselusis, mi daranno il paradis. Con me do la me frutte che si svanti il mio dolor. Ven caiote me ciasute che gli viarte al nostro amor, che gli viarte al nostro amor. Luisa Casali interpreta L'amor c'è calamite. Parole di Lucia Scozziero, musica di Sandrino Cimiotti. L'amore c'è calamite, l'amore, l'amore, l'amore c'è calamite, l'amore, l'amore. Quanch' io sintla sì, io mi sento un po' qualcuno, ancemo une petenade, e tu salto soi di tu. Do spera l'utì, do spusso tutti, c'è che il baste, c'è che il baste a vivi ben. Senza fal che stanco ben, all'amor c'è calamite, non tu puoi disdino, io ne viene malattie, che guarire non si può. L'amor c'è calamite, l'amor, l'amor, l'amor c'è calamite, che un